No, volevo sapere da Dario Fo quanto è amareggiato, cosa pensa di questo, di questa fine di Tonino, di questa fine di Pietro, dell'Italia dei Valori. Certo, che è una disgrazia incredibile che è capitata un dietaro, ma per sua responsabilità senz'altro. Cioè? Perché uno che non ne ha azzeccato uno, tutti quelli che prendevano erano come quelli che vanno a raccogliere i frutti e si accorgono dopo averli comprati che sono marci. E poi gli dice, vabbè, fa più attenzione. Lui dice, adesso faccio attenzione, il primo che prende è un altro di quelli balordi, infami, ladri e via dicendo. Dice, ma basta così, cerca di fare un'inchiesta, sei un ex poliziotto per Dio, ma fai la tua inchiesta, la fa. E poi questo di nuovo un bandito, un disgraziato, e via dicendo. È insomma uno che le va a cercare. Se l'è cercata, se l'è cercata. Sì, proprio se l'è cercata. Ma è finito politicamente, diciamola tutta. No. Sempre per via che lo conosco, parlo.